sì, questo cane di tutore, ma che rabbia che mi fa. Caro a te, mi raccomando, tu mi salva per pietà, sì, sì, sì, sì. Caro a te, mi raccomando, tu mi salva per pietà. Non temer ti rassicura, non temer ti rassicura, serti amica, ben noi sarà. Dunque spero, a me t'affida il mio cuore. Dominerà, I'm